all'inizio c'era una lotta un po' per informare su quello che volevano fare, insomma, il progetto in se stesso, quindi diciamo che coinvolgeva un po' tutta la distruzione, come hai detto te, la distruzione della piazza esistente, che è una piazza di socializzazione, una piazza di un'economia che non è per forza quella turistica, un'economia di piccoli alimentari, piccoli kebab, un'economia anche della socializzazione sulla piazza, in cui si può stare passare del tempo senza per forza consumare o entrare nella logica del turismo. E in seguito all'inizio dei lavori, che sono cominciati già da una settimana, c'è stata una forte opposizione del quartiere, tutti gli abitanti del quartiere hanno cominciato a impedire fisicamente ai camion di entrare nella piazza, le forze dell'ordine sono subito intervenute in massa, diciamo all'incirca una trentina di camion della Celere è arrivata per sgomberare la piazza, che nonostante ciò non è stata investita dalle imprese, perché diciamo è molto difficile anche per la conformazione della piazza essere protetta, diciamo è la più grossa piazza del centro di Marsiglia, quindi è molto difficile anche per la polizia di metterla in sicurezza. E da quel giorno tutti i giorni ci sono stati momenti di tensione, sia con le forze dell'ordine sia con le imprese, le persone contrarie a questo progetto si stanno organizzando, ci stiamo organizzando sia per rispondere agli attacchi della piazza, soprattutto riguardo alla distruzione di alcuni simboli che abbiamo creato qui alla piazza, come delle costruzioni in legno, ricordiamo che hanno abbattuto una trentina di alberi sulla piazza, che erano un po' il simbolo delle persone che si riunivano qua, e ci stiamo organizzando anche per rispondere a questo attacco, quindi abbiamo chiamato una manifestazione nazionale lo scorso fine settimana, è andata benissimo, abbiamo cominciato a costruire un presidio 24 ore su 24 sulla piazza per avvertire nel caso ci siano altri attacchi, e stiamo continuando a informare anche le altre persone del quartiere che sono un po' reticenti sull'obiettivo, perché l'obiettivo politico insomma lo sappiamo tutti e tutte, è quello di cambiare configurazione, una morfologia sociale della società che la abita, quindi rendere questa piazza, invece che per gli abitanti, per i turisti, rendere questa piazza accessibile solo a ricchi e appunto a turisti, aumentare gli affitti e quindi cacciare via insomma le persone che riescono ancora a abitare qua perché hanno degli affitti abbastanza bassi, insomma sbarazzarsi di tutta una classe sociale che non è benvenuta in un quartiere, ricordiamo, molto centrale a Marsiglia. Quindi è un processo di gentrificazione che abbiamo visto in tutte le altre città di Francia, e come anche in Italia avviene una gentrificazione che, quando non riesce in maniera soft, e beh, vediamo, e quando ci sono forme di opposizione, sono obbligati a dichiarare una vera e propria guerra. Qui abbiamo assistito per una settimana a delle scene di guerra, con solo nei primi due giorni una cosa come 200-300 lacrimogeni lanciati nella piazza in due giorni di assedio, e diciamo ha provocato un innalzamento della tensione che sicuramente non era voluto dalle persone, gli abitanti del quartiere, ma che la polizia ha portato avanti senza nessun problema. E invece, come a livello più generale, insomma, il governo in Francia come si sta relazionando insomma a questi avvenimenti? Perché insomma ho visto anche una manifestazione nazionale che è stata fatta ieri a Marsiglia, insomma, se ci vuoi insomma raccontare anche un po' oltre quale insomma sono le implicazioni e qual è insomma la situazione più in generale su questi temi in Francia. A livello nazionale diciamo è una situazione un po' complicata, perché il governo ha inviato degli emissari alla prefettura per insistere sull'importanza di questo progetto, non tanto per una funzione logistica ma anche per un fatto di credibilità, che vogliono, hanno investito molto a livello di credibilità in questo progetto e adesso vogliono continuarlo, però a livello della stampa nazionale cercano un po' di invisibilizzare questa lotta, perché diciamo potrebbe dar coraggio anche a altre forme di resistenza popolare. A livello nazionale è un po' complicato, anche perché la polizia e tutto il meccanismo che repressivo è stata rimessa in discussione negli ultimi tempi in Francia. Ricordiamo ci sono state le dimissioni del ministro degli interni 2 settimane fa, il nuovo ministro degli interni è stato scelto 6 giorni fa qui in Francia, e ha già avvertito che verrà a Marsiglia nelle prossime settimane. Quindi c'è una ricostituzione di quello che è l'apparato repressivo, non dico imminente, ma abbastanza rapido. Quindi ci aspettiamo una nuova controffensiva, e per il momento possiamo, quello che facciamo è organizzarci a comunicare noi con strumenti di automedia, quindi abbiamo i nostri comunicati, i nostri siti internet, i nostri modi di diffusione, perché la stampa nazionale sicuramente se fa dell'informazione la farà dalla parte della riqualificazione, che loro chiamano rigenerazione del centro città. Quindi gli articoli sulla, per il momento a livello nazionale il messaggio che passa è quello che la Plen è ostaggio, hanno utilizzato delle parole come di un centinaio di zadisti che cercano di impedire i lavori. In realtà il fenomeno è molto più complicato e interessante, perché questi che vengono chiamati zadisti sono gli abitanti del quartiere, sono i commercianti dei piccoli alimentari, sono i genitori dei bambini che giocavano sulla piazza. Insomma una configurazione abbastanza complessa che riesce a stare insieme contro un processo, insomma. Infatti quello che ti stavo per chiedere è già risposto, era appunto qual era poi la reale composizione di chi si sta opponendo sia fisicamente, e più che altro ti voglio chiedere quali sono, una composizione così variegata, insomma, che forme organizzative si sta dando ad ora nella quotidianità per portare avanti questo presidio e questa insomma protesta e tentativo, anche se non ho capito male, di resistenza, nel senso di bloccare comunque il progetto fisicamente. Esatto, quello è infatti il punto interessante, è che è stato anche preparato dalla scienza del quartiere, era un po' studiare sulle come differenti fasce di popolazioni diciamo possono coesistere nella stessa lotta e possono darsi più strumenti, come valorizzare una lotta a partire dalla differenza delle eterogeneità della composizione rispetto a ritrovarsi in posizioni conflittuali. Quindi chiaramente ci sono delle persone che hanno privilegiato la difesa degli alberi incatenandosi con sugli alberi, ci sono delle persone che hanno privilegiato la costruzione di strutture in legno per impedire ai camion delle imprese di arrivare, ci sono delle persone che hanno preferito uno scontro frontale con chi difendeva questi camion e quindi le forze dell'ordine, ci sono delle persone che hanno presidiato i tetti dei palazzi adiacenti alla piazza, diciamo diverse forme che hanno messo anche in difficoltà sia la stampa che le forze di polizia, perché non hanno potuto descrivere questa forma d'opposizione come un gruppetto di facinorosi o un gruppetto di militanti. Insomma è una composizione molto più larga, anche molto difficile da tenere insieme, che però è determinata a restare insieme, perché questa piazza, ricordiamolo, se è un simbolo di Marsiglia, perché appunto veniva vissuta da molte persone nello stesso tempo, da persone che la investivano la sera per passare momenti di socialità insieme, per bambini che il pomeriggio giocavano insieme, da persone di tutte le età che giocavano alla petanque o che bevevano birra o che giocavano a calcio, insomma. Quindi l'idea è di impegnarsi fino in fondo per tenere questa differenza anche dentro una lotta. Sembra sicuramente un'idea interessante, e insomma, come dicevi tu, mostra già i primi risultati nei termini, appunto, di non riuscire a confinare quello che sta avvenendo come, appunto, una semplice protesta, diciamo, di chi insomma c'ha già la sua idea, ma appunto di chi già vive un territorio e si rende conto del fatto che quello che chiamano, appunto, riqualificazione non vede nessun reale miglioramento delle proprie condizioni di vita, ma soltanto, appunto, gli interessi poi di chi potrebbe lucrare sul turismo e su delle attività che insomma sembrano lontane poi in realtà dagli interessi e dai bisogni quotidiani di chi già vive quei quartieri, ed è, appunto, purtroppo il minimo comune denominatore di tutti questi interventi di riqualificazione dei quartieri che avviene, appunto, in tutto il mondo, poi dove più, dove meno. Si traduce poi in desertificazione di alcuni spazi che prima erano investiti dalle persone veramente del quartiere, e poi si desertificano perché diventano solo preda di turisti o dei ricchi, che quindi perdono la loro connotazione di spazi di socialità. Certo. E insomma, tu in questo momento sei nella piazza, no? Quindi... Sì, sono nella piazza. Oggi alle 6:30 di mattina, come tutti i giorni, gli operai hanno tentato di cominciare a fare i lavori. Fortunatamente oggi eravamo, dopo l'Assemblea Nazionale di sabato, oggi eravamo molti e molte presenti sulla piazza, quindi dopo un'ora di tentativi, accompagnati, diciamo, da pochi funzionari delle forze dell'ordine, si sono trovati costretti a rimettere tutto nei propri camion e ritornare a casa, perché fortunatamente non sono stati capaci di entrare nella piazza, e molti, anche stamattina, ci sono stati danneggiamenti alle imprese che arrivano, insomma, diciamo, giornalmente si ritrovano con veicoli danneggiati, gomme bucate, insomma, quindi cerchiamo di colpire il capitale là dove fa male, quindi, nel senso, cerchiamo anche di disincentivare le imprese che fanno profitto su queste opere di gentrificazione anche a livello economico, quindi chiaro che atti di sabotaggio diffuso risultano molto produttivi in questa prima fase della lotta, e oggi ha funzionato, e sta per iniziare un'assemblea giornaliera, diciamo, tutti i giorni facciamo un'assemblea, e quindi il fatto che oggi non saremo impegnati a difendere la piazza ci permette di continuare l'organizzazione per questa settimana. Va bene. E io non so se tu tieni in mente qualcos'altro da aggiungere, se no, insomma, è stato abbastanza esaustivo un po' la panoramica che ci hai dato, e insomma ci ha fatto piacere, insomma, riuscire a dare questa voce, anche perché, insomma, è una battaglia che mi sembra in questo momento stia riuscendo anche ad ottenere dei risultati, nel senso che in questo